Fresh Bit di Giulia Crivelli. Most, the world's most powerful man, Xi Jinping, now has more clout than Donald Trump. The world should be wary. L'uomo più potente del mondo, Xi Jinping, ha ora più influenza di Donald Trump. Il mondo dovrebbe stare attento. Si intitolava così la copertina del settimanale britannico The Economist di settimana scorsa, illustrata da un disegno del presidente cinese Xi Jinping, che sta conducendo i lavori del congresso del Partito Comunista, evento che deciderà i destini del suo paese e in certa misura del mondo per i prossimi 5 anni. La parola che ci interessa è most, aggettivo utilizzato da solo o per costruire il comparativo assoluto di aggettivi troppo lunghi, in inglese, per reggere il suffisso est. Longest è il più lungo, deepest il più profondo, ma per dire il più bello dobbiamo usare most. She's the most beautiful woman in the world, è la più bella donna al mondo. The speech of Donald Trump was the most interrupted of the Congress of the Republican Party. Il discorso di Trump collezionò il più alto numero di interruzioni al congresso del Partito Repubblicano. Nel titolo dell'Economist compare anche more, in questo caso è usato come puro aggettivo accanto a clout, che è sinonimo di potere, ma la logica è la stessa che muove l'utilizzo di most. Quando un aggettivo è lungo, non si aggiunge il suffisso er, ma si usa more. You are more beautiful and thoughtful than your sister. Sei più bella e riflessiva di tua sorella. He is more handsome and more intelligent than his father. Egli è più bello e intelligente di suo padre. Interessanti anche alcune espressioni idiomatiche. As a new item, it deserves a short paragraph at the most. Come notizia, merita al massimo una breve. There were 50 people there at the most. Al massimo ci saranno state 50 persone. It was what she wanted most of all. Era ciò che desiderava di più. Lo stesso dicasi di more. More and more people are using the internet around the world. Sono sempre di più, diremmo in italiano, le persone che nel mondo usano internet. I was becoming more and more irritated by his behavior. Diventavo sempre più irritata dal suo comportamento. Un accenno a wary, aggettivo regolare per restare in tema. Wary, warier, wariest. She was wary of getting involved with him. Era spaventata da un ulteriore coinvolgimento con lui.